luce dei miei occhi brilli insieme a me. Questo nostro amore non deve mai finire, ma solo quando d'improvviso ti vedrò sorridere. Finalmente capirò che non ci lasceremo mai. La nostra storia, lo senti anche tu, ci fa volare su in alto nel blu.